Per un momento, forse, la duchessa era stata felice di sentire il proprio passato più consistente perché lo condivideva con me. Ma ad alcune domande che le feci sul provincialismo del signor di Beauté, che a quei tempi faticavo a distinguere dal signor di Sagan o dal signor di Germain, riprese il suo punto di vista di donna di mondo, cioè dispregiatrice della mondanità. Mentre parlava, la duchessa mi faceva visitare il palazzo. In salotti più piccoli c'erano alcuni intimi che per ascoltare la musica avevano preferito isolarsi. In un salottino impero, dove pochi signori in abito da sera ascoltavano seduti su un canapè, accanto a una psiche sostenuta da una minerva, stava una chaise longue, posta orizzontalmente ma incurvata all'interno, come una culla, su cui era distesa una giovane donna. La mollezza della sua posa, che l'arrivo della duchessa non fece minimamente scomporre, contrastava con il meraviglioso fulgore del suo vestito impero di seta, il cui rosso aranciato avrebbe fatto impallidire le più rosse tra le fucsie e sul cui tessuto screziato sembravano essere stati a lungo premuti insegne e fiori, giacché la loro traccia mi rimaneva impressa. Per salutare la duchessa, la giovane donna chinò lievemente la bella testa bruna. Sebbene fosse giorno pieno, aveva chiesto, in vista d'un maggior raccoglimento per la musica, che chiudessero le grandi tende e, per evitare che qualcuno inciampasse, era stata dunque accesa sopra un tripode un'urna da cui si iridava un debole chiarore. In risposta alla mia domanda, la duchessa di Germain mi disse che era Madame de Saint-Hubert. Volli allora sapere chi fosse rispetto alla Madame de Saint-Hubert che avevo conosciuta. Madame de Germain mi disse che era la moglie di uno dei suoi pronipoti. Parve sopportare l'idea che fosse nata la Rochefoucauld, ma negò d'aver conosciuto lei, Madame de Saint-Hubert. Le ricordai la serata, di cui avevo saputo, è vero, solo per sentito dire, alla quale principessa de Lhomme aveva incontrato Swann. Madame de Germain affermò di non essere mai stata quella serata. La duchessa era sempre stata un po' bugiarda e adesso lo era di più. Madame de Saint-Hubert era per lei un salotto, d'altronde piuttosto decaduto col tempo, che preferiva rinnegare. Non volli insistere. No. Chi potete aver intravisto a casa mia, perché era un uomo di ingegno, è il marito di quella di cui parlate e con la quale non avevo rapporti. Ma non aveva marito. L'avete creduto voi perché erano separati, ma lui era molto più gradevole di lei. Finii per capire che un uomo enorme, straordinariamente alto, straordinariamente robusto, tutto bianco di capelli, che incontravo un po' dappertutto e di cui non avevo mai saputo il nome, era il marito di Madame de Saint-Hubert. Era morto l'anno prima. Quanto alla nipote, ignoro se fosse a causa d'una malattia di stomaco o di nervi, d'una flebite, d'un parto imminente o recente o d'un aborto, che ascoltava la musica distesa e senza alzarsi per nessuno. La cosa più probabile è che, fiera delle sue belle sete rosse, pensasse di fare su quella chaise longue un effetto alla Récamier. Non si rendeva conto di determinare, per me, una nuova fioritura del nome Saint-Hubert, che a così lungo intervallo segnava la distanza e la continuità del tempo. Ciò che stava cullando in quella navicella, dove il nome Saint-Hubert e lo stile impero fiorivano in fucsie di seta rossa, era il tempo. Madame de Germain dichiarava lo stile impero d'averlo sempre detestato. Questo voleva dire che lo detestava adesso, il che era vero, perché seguiva la moda, sebbene con qualche ritardo. Senza complicare le cose parlando di David, che conosceva poco, Da giovane aveva giudicato Ingres come il più noioso dei parrucconi, poi, di colpo, come il più saporito dei maestri dell'Art Nouveau, tanto da detestare Delacroix. Attraverso quali passaggi, da questo culto, fosse tornata alla riprovazione, non ha importanza. Trattandosi di sfumature del gusto, che la critica d'arte riflette con 10 anni d'anticipo rispetto alla conversazione delle donne superiori. Dopo aver criticato lo stile impero, si scusò d'avermi parlato di persone insignificanti come i Saint-Hubert e di insulsaggini come il lato provinciale di Brotet. Era infatti tanto lontana dal supporre perché questo mi interessasse quanto Madame de Saint-Hubert La Rochefoucauld, intenta al benessere del suo stomaco, a un effetto alla Ingres, dal sospettare che ero affascinato dal suo nome, da quello di suo marito, non da quello più glorioso dei suoi genitori, e che le assegnavo, in quella stanza piena di attributi, la funzione di cullare il tempo. «Ma come faccio a parlarvi di queste stupidaggini? Com'è possibile che vi interessino?» esclamò la duchessa. Aveva detto questa frase sottovoce e nessuno aveva potuto afferrare le sue parole. Ma un giovanotto, che attirò in seguito il mio interesse grazie a un nome a me ben più familiare in altri tempi del nome Saint-Hubert, si alzò con aria esasperata e si allontanò per ascoltare in maggior raccoglimento. Era la sonata a Kreutzer che stavano suonando. Ma lui s'era confuso sul programma e credeva che fosse il pezzo di Ravel di cui gli avevano assicurato che era bello come palestrina, ma difficile da capire. Nella foga del cambiar posto urtò, a causa della semioscurità, contro un piccolo scrittoio, cosa che non mancò di far voltare la testa a parecchie persone per le quali il semplicissimo esercizio di guardare dietro di sé interrompeva un poco il supplizio di ascoltare religiosamente la sonata a Kreutzer. E Madame de Germain e io, cause del piccolo scandalo, ci affrettammo a cambiare stanza. «Sì, com'è possibile che queste sciocchezzuole interessino un uomo del vostro valore? Anche poco fa, quando vi ho visto parlare con Gilbert de Saint-Luc, non è degna di voi. Per me quella donna è il nulla assoluto, non è nemmeno una donna. Non conosco al mondo niente di più finto e di più borghese». Alla difesa dell'intellettualità, la duchessa mescolava infatti i suoi pregiudizi di aristocratica. «D'altronde, vi sembra il caso di venire in case come questa? Oggi ancora, capisco. C'era questa recita di Rachel che vi poteva interessare, ma per bella che sia stata, non la si dà davanti a un pubblico così. Vi inviterò a colazione, voi e lei soli. Vedrete che creatura. È 100 volte superiore a tutto quello che potete trovare qui dentro e dopo colazione vi reciterà un po' di Verlaine. Poi mi direte, ma in questi baracconi no. Non mi capacito che ci veniate, a meno che non sia per fare degli studi», aggiunse in tono dubitativo, diffidente, e senza avventurarsi più di tanto perché non sapeva bene in cosa consistesse il genere di operazioni improbabili cui aveva alluso. Mi vantò soprattutto i momenti in cui, dopo colazione, arrivavano ogni giorno X e Y. Era approdata infatti alla stessa concezione delle donne salottiere che una volta, anche se oggi lo negava, disprezzava tanto, e la cui grande superiorità, il marchio elettivo, secondo lei, consisteva nel poter avere in casa loro tutti quanti. Se le dicevo che una certa gran dama, salottiera, non parlava affatto bene, quando era viva, di Madame Holland, la duchessa scoppiava a ridere della mia ingenuità. Ma certo, l'altra poteva avere tutti quanti, mentre lei cercava di attirarli. Non credete, chiesi alla duchessa, che per Madame de Saint-Luc sia penoso ascoltare come le è toccato oggi l'ex amante di suo marito. Vidi formarsi sul viso di Madame de Germain quella barra obliqua che collega per via di ragionamenti ciò che si è appena sentito a qualche pensiero poco piacevole. Ragionamenti inespressi, è vero, ma tutte le cose gravi che diciamo non ricevono mai risposte verbali o scritte. Solo gli stupidi sollecitano invano 10 volte di seguito una risposta a una lettera che hanno avuto il torto di scrivere e che era una gaffa. A lettere del genere, infatti, si risponde sempre soltanto con degli atti. Incontrandovi, la destinataria, che credevate poco sollecita nel rispondere, vi dirà «Signore», invece di chiamarvi per nome. La mia allusione alla relazione di Saint-Luc con Rachel non aveva niente di tanto grave e non poté contrariare per più d'un secondo Madame de Guermantes, ricordandole che ero amico di Robert e forse ero stato il suo confidente a proposito delle amarezze procurate a Rachel dalla serata in casa della duchessa. Ma non persistei in questi pensieri. La barra tempestosa svanì e Madame de Guermantes rispose alla mia domanda su Madame de Saint-Luc. Detto fra noi, credo che le sia indifferente, tanto più che Gilbert non ha mai amato suo marito. È un piccolo mostro. Quello che amava era la posizione, il nome, essere mia nipote, uscire dal suo fango, dopodiché non ha pensato ad altro che a tornarci. Vi dirò che mi dispiaceva molto per il povero Robert, perché, pur non essendo un'aquila, si accorgeva benissimo di questa ed un mucchio di altre cose. Non bisogna dirlo, perché malgrado tutto è mia nipote. Non ho la prova certa che lo tradisse, ma ci sono state un mucchio di storie. Ma sì, vi dico che lo so. Con un ufficiale di Méséglise. Robert lo voleva sfidare a duello. Ma se è proprio per tutto questo che Robert si è arruolato, la guerra gli è sembrata una specie di liberazione dai dispiaceri di famiglia. Se volete sapere quel che penso, non è stato ucciso, si è fatto uccidere. Lei non ne ha avuto il minimo dolore, mi ha addirittura sbalordita, affettando con raro cinismo la sua indifferenza, cosa che mi è terribilmente dispiaciuta perché gli volevo bene. Al povero Robert. Forse vi stupirà, perché mi si conosce poco, ma mi capita ancora di pensare a lui. Non dimentico nessuno. Io non mi ha mai detto niente, ma aveva capito che intuivo tutto. Ma andiamo, se avesse amato anche solo un poco suo marito, potrebbe forse sopportare con tanta flemma di stare nello stesso salotto con la donna di cui lui è stato perdutamente innamorato per tanti anni. Anzi, sempre si può dire, perché sono sicura che non è mai finita, neanche durante la guerra. Ma le salterebbe alla gola, esclamò la duchessa, dimenticando che lei stessa, facendo invitare Rachel e rendendo possibile la scena a suo giudizio inevitabile se Gilbert avesse amato Robert, aveva forse agito crudelmente. Il fatto è, concluse, che è una troia. Un'espressione siffatta era resa possibile a Madame de Guermantes dal fatto che stava scendendo una sorta di pendio dal giro dei Guermantes simpatici a quello dei teatranti, e anche perché innestava il tutto su un certo stile XVIII secolo che riteneva crudamente vigoroso, nonché, infine, perché era convinta che ogni cosa le fosse permessa, ma a dettargliela quell'espressione era l'odio che provava per Gilbert, il bisogno di colpirla, non potendolo fare materialmente, almeno in effigie. E nello stesso tempo la duchessa pensava di giustificare così tutto il suo comportamento verso, o meglio contro, Gilbert, da lei tenuto in società, in famiglia, persino riguardo agli interessi e alla successione di Robert. Ma poiché i giudizi che uno dà ricevono a volte un'apparente giustificazione da fatti che egli ignora, né potrebbe supporre Gilbert, che certamente aveva preso qualcosa da sua madre. Ed è proprio su questa facilità che io, senza rendermene conto, avevo fatto assegnamento chiedendole di farmi conoscere fanciulle giovanissime. Trasse dalla mia richiesta, dopo aver riflettuto, e probabilmente perché il profitto rimanesse in famiglia, una conclusione più ardita di tutte quelle che avrei potuto aspettarmi, e mi disse: «Se permettete, vado a cercare mia figlia per presentarvela. È là che conversa con il giovane Mormar e altri bambocci privi di interesse. Sono sicura che potrà essere per voi una simpatica amica».